Tempo di Sport con Carlo Genta. Ciao a tutti, Franco Piantarini in redazione, Pietro Lacorte in regia e fuori programma sottoscritto Carlo Genta, anche se è mercoledì. 800 24 00 24, il vostro numero di telefono per intervenire, messaggi 349 238 6666. La prima cosa che mi viene da dire a Pierluigi Pardo, che ieri sera ha raccontato Napoli-Manchester City a 1.087.000 italiani, a proposito, complimenti per il sorpasso su Sky, è che questa stagione è un bel Prozac per il nostro calcio. Questa te la ricordi, ce l'hai ancora nelle orecchie. Ciao Pierluigi. Ciao ragazzi, questi sono rumori meno nobili, perché sono all'aeroporto di Napoli, quindi sentirete qualche annuncio, insomma. però siamo carichi di sfogliatelle e di entusiasmo, perché è stata veramente una serata magica, bellissima per tutto il calcio italiano, ovviamente per la città di Napoli. Insomma, qui si rischia sempre di finire nella retorica più banale, però insomma, come dice Sacchi, il calcio è meno importante, è la più importante, no? Perché comunque ti può regalare delle gioie incredibili, irrazionali, che non ti cambiano la vita, ma evidentemente ti regalano un po' di ottimismo, un po' di serenità, e magari diventano anche uno stimolo a fare sempre meglio. Il grande Napoli ieri ha fatto quello che doveva fare, Mazzarri gliel'ha incartata, diciamo la verità. Gliel'ha incartata, altro che, a Mancini, un po' presuntuoso come la sua squadra. Complimenti comunque per il sorpasso di Mediaset Premium su Sky, almeno per ieri sera, perché visti Mancini, i dati, 1.087.926.000. Sono le mie due famiglie, quindi ieri ero a pranzo e a cena, perché poi insomma a Napoli si mangia anche, direi, discretamente. Lei di Sky di Mediaset, no, è stato molto bello, e chiaramente insomma più di 2 milioni di persone fra Mediaset e Sky abbiamo visto questa partita, ed è un grande risultato per una partita che era ovviamente ieri sera soltanto pay, che non era in chiaro. Più ci sono i 60.000, 65.000 del San Paolo, più, insomma, c'è tutto l'entusiasmo che si è respirato evidentemente in una notte fantastica. Questo è stato un po' presuntuoso, in effetti. È chiaro che la squadra più forte, con valori assoluti come somma di talento, ovviamente anche come budget, è stato calcolato questo 61, che forse è una stima un po' per eccesso, ma comunque insomma la differenza di budget tra le due squadre è enorme. Sì. E il Napoli ha fatto la partita perfetta che doveva fare, quindi l'ha messa sul piano della determinazione. Se no, Mazzarri. Ma ha giocato un gran calcio, eh. Cioè, a me pare, Pierluigi, che il Napoli sia una specie di segreto di Pulcinella: un portiere che para, un centrocampo che non fa passare nessuno, Lavezzi che crea, Cavani che segna, 11 titolari, un allenatore che attacca la corrente e il San Paolo che aumenta il voltaggio. Mi sembra qui. Ha avuto la forza del secondo tempo sul 2-1, comunque, di continuare a ripartire, le occasioni migliori. City è normale, qualche occasione ce l'ha avuta, ma insomma il Napoli ha avuto 3 palle gol clamorose per fare il 3-1, quindi non è mai stato un assedio. È stato chiaramente un finale complicato, perché il Manchester ha tante qualità. Secondo me rimane il rimpianto in casa City di Agüero, che poteva essere schierato sicuramente prima, poi siamo tutti bravi ovviamente a dirlo dopo, però insomma la sensazione ce l'avevamo, perché sappiamo che questo è un giocatore da 45 milioni, un giocatore che ha fatto 10 gol nelle prime 11 giornate in Premier League, insomma poteva essere utile. Dzeko era abbastanza trasparente ieri sera. Mazzarri non si deve arrabbiare se gli dicono che ha giocato all'italiana, perché un calcio all'italiana modernizzato, sì, e con l'intensità che si è vista ieri, è un calcio che soprattutto nella partita secca ti può portare molto lontano. Il Napoli deve trovare adesso nelle partite banali, nei match magari con il Chievo, il Parma, le squadre diciamo che non hanno lo stesso appeal, con tutto il rispetto, delle grandi sfide, più la stessa feroce determinazione. Se riuscirà a fare questo, poi diventerà competitiva anche in campionato. Sì, sarà difficile. Continuo a credere che il Napoli sarebbe stato da corsa per questo scudetto, almeno quanto la Juventus. Così non so, perché deve lasciare punti per strada per forza, l'ha detto anche Mazzarri, perché questa intensità non la puoi spalmare su due partite alla settimana, giocando con queste, in questo modo e con queste caratteristiche. Ti lascio prendere l'aereo, vecchio mio. Sì, no, una cosa finale su questo argomento. Ma perché prego. Alla fine questa era una scommessa, se vuoi, abbastanza folle, quella che ha fatto il Napoli, perché dopo un sorteggio come quello che c'è stato con Napoli in porta fascia, con quelle avversarie, si poteva anche pensare insomma di concentrare le energie sul campionato, e fino a ieri pomeriggio poteva sembrare anche la soluzione diciamo più logica. E il Napoli ha preso un'altra strada coraggiosa, quella di crederci, ed è adesso è un passo dal traguardo. Attenzione, è un passo, perché non dobbiamo pensarla un po' all'italiana, no? Secondo me andare in casa del Villarreal comunque non è facile, devi andare a vincere contro una squadra che non ha ancora fatto un punto, che secondo me non ti regala nulla. In Champions ci sono sempre comunque motivazioni, perché ogni partita e ogni risultato porta dei soldi, e quindi attenzione. Certo. De Laurentiis mi pare abbia già detto: attenzione, che se facciamo 0-0 a Villarreal siamo fottuti. Mi sembra abbia detto, mi sembra abbia detto così. Un francesismo. Un francesismo. Buon viaggio. Grazie. Tutta l'Italia. Grazie. Grazie per Luigi Pardo. Sette volte l'ha detto, sette volte l'ha strillato. Adesso tocca a voi, 800-24-0024, numero verde. C'è chi, come Piero da Torino, scrive che ieri sera di Gran Calcio ne ha visto poco, Mancini e il Manchester presuntuosi, Napoli in difesa, ma va bene così. Beh, insomma, Napoli in difesa non direi più di tanto, anche perché secondo me poteva essere anche più largo quel risultato a favore del Napoli, anche se Mancini ha detto ma non meritavamo di perdere. Evidentemente ne ha vista un'altra di partita, oppure ovviamente faceva il suo gioco. 800-24-0024, Nicola da Milano, buonasera. Buonasera, sono da Milano ma sono tifoso del Napoli. Ieri purtroppo ho dovuto godere dal televisore piuttosto che dallo San Paolo. Sempre meglio che niente. Sempre meglio che niente. Volevo fare i complimenti a Pardo, peccato che non ci sia più. Tutto a bene, chi? Bellissimo. Ah, Pardo, sì. Sì, al sì, Pierluigi, sì, certo. Ho addirittura staccato a Uriema perché non me ne voglia, ma è diventato un pochettino noioso, no? Così. E anzi, volevo parlare di un qualcosa che mi fa cuore. Mi dà quasi fastidio vedere a Uriema prima della partita andare coi cornetti, a fare sempre a far apparire quell'immagine di Napoli. È vero, un po' stereotipata, io condivido, ma sa che a proposito di immagini magari un po' stereotipate ma estremamente divertenti, a San Gregorio Armeno, cioè la fabbrica dei presepi, quella meravigliosa via di Napoli in cui si fanno i presepi, oggi hanno aggiunto l'aureola a Mazzarri, lo sa, la statuina di Mazzarri che già c'era. Da oggi è con l'aureola, perché scrive Marco Ferregno, il presepiale che lo ha realizzato, vedere il Napoli così come l'abbiamo visto ieri sera, sapere che ci sono ottime possibilità di continuare il cammino in Champions, è un'impresa da santi, e Mazzarri lo è. Siamo al limite della blasfemia, ma tant'è, oggi magari ci può stare. Nicola? Sì, certo, però è troppo esagerato, mi piacerebbe che fosse solo appena accennato. Tutte le volte si parla solo delle pizze alla Cavani, per esempio, è un po' troppo stereotipato, come dice lei, è esagerato, sì. È un po' fastidio da napoletano. Sì, anche perché adesso c'è una grande squadra, al di là delle statuine, delle pizze, per esempio, tutte queste immagini, è vero, troppo stereotipate, che circondano Napoli. Adesso c'è una squadra che è grande quanto il Vesuvio, se vogliamo rimanere sugli stereotipi. Olé, olé, olé, passa, viva! Cosa scrivete, Radio Vesuvio? Questa è Radio 24, che vuole parlare di sport e vuole parlare di una grande impresa, di una squadra italiana, vuole parlare di un calcio italiano, dicevo in apertura, che sta vivendo questo inizio di stagione internazionale con un bel Prozac, ma per il nostro calcio tutto intero, per il nostro calcio sempre un po' depresso, per il nostro calcio che ormai ha un malcelato complesso di inferiorità, e in questo conto rientra anche la nazionale di Prandelli, rientra anche una nazionale che non ha mai avuto così tanta fiducia, che come ha detto il nostro CT finalmente gioca per tutti e non contro qualcuno, quindi mi sembra un momento di sole vero per il nostro calcio, quindi vale la pena celebrarlo, e il Napoli è quasi la cavalcata del Napoli in questa Champions League, in questo girone che sembrava impossibile, è un po' il simbolo di questa primavera che il nostro calcio, di questa primavera fuori stagione o estate indiana che il nostro calcio sta vivendo. Poi tra l'altro, ed è vero, ed è un discorso vero che abbiamo anche accennato con Pierluigi Pardo, e vi butto in un altro argomento di discussione se volete, l'Europa sta riscoprendo, l'ha detto Balotelli ieri dopo la partita, giocare in Inghilterra è più facile, segnare in Inghilterra è più facile, ma l'ha detto anche Pastore in un'intervista oggi, che ho intravisto per la verità sulla Gazzetta dello Sport, Beh, Serie A è diverso, lì molto, qui è molto più semplice, qui in Francia, qui al Paris Saint-Germain è molto più semplice fare i gol, fare gioco, trovare libertà. L'Europa sta riscoprendo come il nostro calcio sia comunque qualcosa di maledettamente difficile per chi lo affronta. Francesco da Napoli, poi andiamo a Catania, poi torniamo a Napoli con Marco, eccetera. Francesco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie per avermi dato la possibilità di intervenire. A lei. Ieri ero allo stadio, come molti dei napoletani. Volevo semplicemente dire questo: per fortuna che il calcio non è quello che descrivono semplicemente giornalisti fatti di numeri e di cifre, perché altrimenti noi in questo girone non avremmo 8 punti, non saremmo l'unica squadra del girone a aver fatto 2 gol a Monaco e non avremmo battuto il Manchester City contro ogni pronostico. Chiedo un po' alla stampa nazionale e anche ai tifosi a cui siamo antipatici da tre squadre, sosteneteci, perché comunque il Napoli sta difendendo l'Italia. Sì, in dubbio, Francesco, ma non mi pare il caso di sottolineare queste cose, almeno per quanto riguarda la stampa nazionale. Mi sembra invece che sia seguita nei modi dovuti, nei modi corretti, l'avventura del Napoli. Non trovo spunti di lamentela da questo punto di vista. Secondo me, quanto alla simpatia dei tifosi italiani, anche questa mi sembra abbastanza fuori discussione. Gianfranco da Catania, buongiorno. Pronto? Pronto? Sì, salve. Dottore, innanzitutto complimenti per la sua trasmissione. Grazie. Io le volevo dire questo, che cosa ne pensava. Se ad esempio il Manchester City fosse stata una squadra italiana e perdeva così, cioè eliminata, diciamo così, dalla Champions. Eliminata, Mancino, vediamo, il City, eliminata, vediamo, perché manca una partita e anche l'ultimo incrocio. Vabbè, adesso si può festeggiare tutti quanti, no? Come Mazzari, questa me la voglio proprio godere, ha detto ieri sera. Però attenzione, perché bisogna andare a vincere in Napoli deve andare a vincere in Spagna, via Real. Io da italiano mi auguro così che il Napoli già è qualificato con specificità da Catania. Ma guardi, io volevo dire questo. Sì. Se fosse stata una squadra italiana, Mancini avrebbe perso questa partita, cioè rischia l'eliminazione dalle coppe, l'avrebbero mandato già subito a casa. No, vabbè, ma è primo in campionato, è primo in Premier, insomma. Io credo che piuttosto il Manchester City non abbia ancora una reale caratura europea, una reale statura europea. Mi sembra una squadra tremendamente forte, che ieri sera ha commesso degli errori di presunzione, certamente, perché è stato schiantato sulla corsa sul piano della corsa, dell'impegno tattico, della ferocia dal Napoli. Non è riuscito a reagire a quel primo quarto d'ora della ripresa in cui si è fatta la partita, come d'altra parte lo stesso Mancini ha ammesso. Beh, mi sembra che Mancini e il City stiano facendo un campionato straordinario in Inghilterra. Qualcuno si ricorderà anche come è finito il derby di Manchester in casa dello United, con quella che Ferguson ha definito la sconfitta più umiliante della mia carriera. Il City non è partito bene in questa Champions League, adesso è sull'orlo del baratro. Non mi sembra una squadra che ha ancora una reale caratura europea. Io credo che vincerà il campionato inglese, anche se è molto presto, però credo vincerà il campionato inglese. In Europa forse non è ancora matura per essere così protagonista. Però, ripeto, aspettiamo l'ultimo incrocio, perché sappiamo come a Manchester si presenterà il Bayern Monaco già qualificato. In Inghilterra, mi segnala Franco Piantaneda, quotano la vittoria del City in Europa League, quindi dando per scontato il terzo posto e quindi il passaggio all'Europa minore, eccetera, quotano a 6,50. Stiamo a vedere, perché poi il Napoli deve andare a vincere in Spagna, a Villarreal, col Villarreal ancora a quota zero, che non regalerà punti, anche perché i punti costano, anzi i punti premiano in termini economici in Champions League, come ben sapete, e tanto. Dunque nessuno regalerà nulla, e essere costretti ad andare a vincere in trasferta in Spagna non è comunque qualcosa di leggero. Marco da Napoli, buonasera. Buonasera, dica. Un saluto a tutti i radioascoltatori. Io non si discute l'impresa di ieri, il capolavoro di Mazzarri, senza alcun dubbio. Però volevo andare un po' controcorrente e un po', come dire, tirare le orecchie a tutti quei tifosi del Napoli che tanto criticano Lavezzi e lo accusano di non di non di vedere la porta, passatemi il termine. Io ieri ho visto ancora una volta un grandissimo Lavezzi, indubbiamente il migliore in campo, è l'unico che riesce sempre a creare la superiorità numerica ed è quello attraverso il quale il Napoli gioca. Purtroppo io le dicevo voglio andare controcorrente proprio perché non vedo altre soluzioni, nel senso che secondo me questo Napoli è troppo Lavezzi dipendente. E se Lavezzi non Napoli, è in palla, Marco, Napoli, Napoli dipende dalle sue stelle, ma questo era anche l'anno scorso, cioè Cavani deve segnare, Lavezzi deve produrre superiorità numerica, deve creare. A maggior ragione il Napoli sta facendo comunque quello che sta facendo senza l'apporto, anche ieri sera minimo, secondo me, irrilevante al di là di quel palo, di Marek Hamsik, che sta giocando una stagione molto opaca, quindi questo è ulteriore merito di quello che stanno facendo gli altri, di quello che sta facendo Mazzarri. Ma ripeto, il segreto del Napoli mi sembra un segreto abbastanza di Pulcinella, no? Ha un portiere che para. A proposito, non sono d'accordo sulla Vezza migliore in campo ieri sera, io direi Cavani è secondo De Santis, che ci ha comunque messo del suo nel salvare il risultato. Ha un portiere che para, un centrocampo di interditori feroci e un centrocampo nel quale con questo tipo di struttura hai spesso il predominio numerico, no? La superiorità numerica, e comunque i tre davanti che creano e Lavezzi che finalizza. Mi sembra che l'idea sia questa. Poi è chiaro che Lavezzi è un giocatore determinante per il Napoli, ma stiamo parlando di acqua calda, perché lo era anche l'anno scorso. Non a caso, quando Lavezzi mancava l'anno scorso, ripeto, il Napoli stentava, quasi come assioma, insomma. Fabrizio da Bologna. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. 800 24 00 24, numero che ha composto Fabrizio, che potranno comporre tutti quelli che vorranno intervenire in A Tempo di Sport. Dica. Ascolti, no, io da ex interista, da? Deluso da quando... Da ex interista, ha detto? Allenava l'Inter. No, mi scusi, sì. Fabrizio, ha detto da ex interista? No, mi scusi, da interista. Ah, ho capito male io. No, nel senso che Mancini, quando allenava l'Inter, il campo internazionale purtroppo non ha mai avuto risultati. Sì. Molto deludente. Sì. E quindi anche ieri sera... essere presuntuosi in quella maniera non mi è sembrato un atteggiamento diverso da quando allenava l'Inter. Mi sembra che comunque all'Inter quelli che hanno ottenuto risultati internazionali siano uno, no? Quello che adesso allena Real Madrid. Gli altri, per una via o per l'altra, non sono mai arrivati in fondo. Quindi poi è chiaro che insomma Mancini ha fatto benissimo, secondo me, all'Inter, non è il caso di stare a ricordare tutto quanto, però comunque Mancini è quello che ha inaugurato un corso vincente all'Inter. Ieri sera, secondo me, ha commesso degli errori, perché non anch'io, come Pardo, come altri che intervengono, che sono intervenuti, non riesco a capire la mossa dell'utilizzare Dzeko, che resta non discuto il valore assoluto del giocatore, ma in una partita come quella di ieri sera, Dzeko, che poi ti vedi costretto a spostare su una fascia, a maggior ragione, non capisco cosa ti possa dare di più o di diverso rispetto ad un Agüero che ho visto anche sabato con il Newcastle. Era un giocatore in una condizione pazzesca, che poteva dare molto più fastidio alla difesa del Napoli. Tra poco ci fermiamo per la borsa, c'è Salvatore da Modena in linea. Volevo aggiungere un appunto sull'Inter, di cui poi parleremo, ovviamente parleremo anche di ciò che ci aspetta, e cioè di Milan-Barcellona. L'Inter non fa impressione, ma resta una squadra che ha uno status europeo, visto che ne stavamo parlando, lo mette in campo con autorità, basta per il momento con quelle che contano poco, con le squadre del suo girone. Gironi europei che comunque chiedere al Manchester United bisogna vincere, bisogna domare a prescindere da chi vi partecipa. Interessante invece, almeno secondo me, come Ranieri stia trovando energie, linfa e anche gol, come vediamo di recente, da giocatori diversi da quelli storici. Coutinho in campionato, Alvarez, lo stesso Zárate con sempre maggiore continuità. Salvatore, buonasera, buongiorno. Salve, buonasera, buongiorno, chiamo da Modena. Sì. Senti, io sono in viaggio da ritorno dopo la partita di ieri sera del Napoli. Ah. Senta, io volevo intervenire dicendo, oltre a fare i complimenti alla grande squadra di ieri, volevo fare i complimenti anche al pubblico. Sì. Ieri ha dimostrato anche di meritare questa Champions, come attaccamento alla squadra e tutto. Ieri sembrava che Napoli avesse vinto lo scudetto dopo la partita, sì. La gente era impazzita. Sì, sì, sì. No, ma io credo che non si deve fare complimenti per cose che dovrebbero essere doverose, tipo la civiltà del comportamento, questo dovrebbe essere scontata. Io credo che l'ambiente del San Paolo in questo momento sia uno degli spettacoli sportivi più belli d'Europa, o forse il più bello addirittura. In questi termini, in termini di calore, di tifo, di emotività, credo sia davvero uno degli spettacoli di pubblico più belli d'Europa. Mi rendo conto da certi messaggi che il tifo è davvero una lente deformante, potrei dire anche altre cose, ma ho sotto gli occhi questo di Mario. L'Inter ha goduto di un girone ridicolo, non dica fesserie. L'Inter che status europeo ha? Quello dello Schalke? Ma vada al bar con suo amico e sodale Mario Boni, lei indegno di Radio 24, vada in Trecenel, sarebbe più credibile, senza alcuna stima. Grazie Mario. Girone dell'Inter semplice, nessuno lo discute, anche i gironi semplici devono essere vinti e domati, basta spiegare al Manchester United, ad esempio, che è in un girone che mi sembra che con Benfica, Basilea e Otelul Galati non sia il massimo della difficoltà, non sia un Everest o un K2, eppure il Manchester United è lì appeso a un filo dopo il pareggio 2-2 in casa di ieri con il Benfica. Posso leggere, non so, a caso un altro girone come questo guidato dall'incredibile Hapoel Nicosia, con lo Zenit a 7 punti, il Porto a 4, lo Shakhtar Donetsk a 2. Lo stesso girone del Milan combatte Borisov e Pilsen, non mi sembra qualcosa di incredibile, però è la nuova Champions League, la Champions League delle frontiere allargate. L'Inter ha perso la prima partita contro il Trabzonspor in casa, come ricordiamo, e si è andata poi a guadagnare la qualificazione vincendo a Mosca, vincendo con il Lille, con il pareggio di ieri sera. Ha fatto il suo, mi pare, ha fatto il suo, e per il momento la personalità europea basta, poi non basterà più, vediamo se l'Inter crescerà. Non mi sembra di dire delle cose eretiche. Luca, provincia di Chieti, buongiorno. Buongiorno, salve, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Volevo infatti, come lei stava ben dicendo, esaltare soprattutto la performance delle nostre squadre italiane. Infatti, mentre diciamo negli anni scorsi comunque le nostre squadre faticavano al raggiungimento della qualificazione, adesso vediamo già il Milan alla quarta giornata, alla quinta giornata l'Inter qualificata, e con un Napoli diciamo quasi ad un passo dalla qualificazione, quindi quest'anno abbiamo avuto maggiori soddisfazioni, mentre ad esempio squadre inglesi che l'hanno fatta da padrone, come il Manchester, lo stesso Manchester City, cioè lo United del City, rischiano diciamo il Manchester United di fare un secondo posto, mentre il City di uscire dalla Champions. Quindi... lo United rischia anche qualcosa in più, perché la classifica del gruppo C dopo le partite di ieri sera con il Basilea, che ha vinto 3-2 sul campo del Galati, lo United che ha pareggiato in casa 2-2 col Benfica, dice United e Benfica 9, Basilea 8, e se non ricordo male, ma non ricordo male in questo caso, nell'ultima gara lo United andrà a Basilea. Quindi rischia anche qualcosa di più, insomma, mi pare che questo girone sia stato complicato per molte. Vedo il Porto, ad esempio, che è lì a 4 punti dietro a Nicosia e lo Zenit San Pietroburgo. Insomma, mi sembra che ripeto, siano quello del Napoli era incredibilmente difficile come girone, quasi impossibile, bellissimo, intendiamoci, però agonisticamente bellissimo, ma quasi impossibile. Però mi pare che anche in questi gironi che sono di fatto più morbidi, con la Champions League dai confini allargati voluta da Platini, anche questi gironi si debbano domare, torno a ripetere. Vorrei ora virare un attimo, se volete, ma poi torniamo su tutti gli argomenti di cui avete voglia di parlare, 800 24 00 24 numero verde assolutamente a schema libero. Vorrei virare sul Milan, che giocherà stasera, dei risultati già acquisiti all'attesa della partita tutto sommato più affascinante di questa prima fase. E allora andiamo alla vigilia con Allegri. 10 gocce di Valium. Per dormire meglio. Ma il mio amico è molto sereno e molto tranquillo. Voglioso come tutti gli altri giocare questa partita. Credo che ci sia voglia di far bene. Comunque, visto che quando aveva il mal di pancia gli ho dato il Malox, domani daremo il Valium. 20 gocce di Valium. Filippo Maria Ricci dalla Spagna per la Gazzetta e per noi. Come si dice Valium in spagnolo? Valium. Il Valium, sì. Tranquillante. Malox è sempre lo stesso invece, perché anche lì hanno dovuto dargliela a un certo punto a Ibrahimovic. Vabbè, mal di pancia, sì, se l'è preso da solo veramente, secondo me a un certo punto. Perché sì, poi ma si è preso anche del Valium, ma sentire a leggere la sua autobiografia, perché lui diceva che aveva cambiato, si era calmato, stava cambiando abitudini, usi e costumi, non si riconosceva più. E quindi è come se fosse stato sotto psicofarmaci. Sono curioso di vederlo Ibra questa sera, penso anche tu, no? Ma perché queste partite in cui c'è questa attesa così grande, che sente in maniera così spasmodica, ed è inutile negare che questa partita se è caricata sulle spalle da solo, e in queste partite Ibrahimovic non riesce mai ad essere brillantissimo. No, infatti, vediamo, anche se questa non è una partita fondamentale. E quindi forse qualcosa potrà fare. Ibra tende un po' a sparire nelle partite quelle veramente sei dentro particolarmente, sei particolarmente cattivo. Sì, un po', vabbè, ma cattivo, insomma, è un po' la sua storia. Poi non, il campione non si discute, il giocatore non si discute, però soprattutto in Europa ci sono giocatori che hanno fatto meglio. Non so, ma poi, vedi, lì dipende uno anche come si trova. Non so, io seguo tanto il Real Madrid. Qui ci sono Benzema e Higuain. In Europa Benzema è tre volte superiore a Higuain. Con questo non vuol dire che Higuain non sia un buon giocatore, è stato decisivo in Liga tante volte. Ci sono anche situazioni, si vede, palcoscenici che fanno più o meno bene. Però stasera alla fine è una partita sì che vale il primo posto nel girone, però non è una partita trascendentale, è più per tutto il corollario, il corredo. Però la partita in sé, ieri è una partita decisiva, quella del Napoli. Sì. Quelle sì che sono sì partite. No? Quelle sì, e poi Napoli seguirà in Spagna, io immagino. E credo che quella sia una gara da non sottovalutare, perché oggi festa grande per tutti e ci sta, però io credo che molto sia ancora da fare. Io credo che molto sia ancora da sì fare. Sì, però il Villarreal è in una condizione disperata. Sì. Devono, secondo me, guardarsi alle spalle e fare una loro liga più o meno dignitosa, perché non hanno una squadra, che può andare in difficoltà anche in liga. E certo, pensa come sono cambiate le cose. Il Napoli è venuto qui, cos'era, marzo, aprile, in Europa League, snobbando il Villarreal, snobbando l'Europa League perché aveva lo scontro diretto col Milan tre giorni dopo, no? Persero qua, vanno fuori, poi perdono anche 3-0 col Milan, no? E facendo turnover e tutto. Adesso tornano a Villarreal decisi a far bene. Voglio dire, sarebbe veramente un suicidio dopo che hai battuto il Manchester City non vincere col Villarreal, sarebbe un paradosso incredibile. Lo so, però sai, per una squadra che vive così tanto di emotività come il Napoli, sono partite pericolose, perché no, quello senz'altro. Poi sì, Villarreal non gliene frega niente, giocano così per tranquillamente, non hanno pressioni, però voglio dire, è il primo grande esame per il Napoli. Sicuro. Senti, vorrei sottoporti una cosa che ha scritto Mario Sconcerti sul Corriere della Sera di oggi, che è questa, vado a leggere. È un tempo in cui Guardiola si sente imperfetto, soprattutto in trasferta dove ha lasciato punti strani quando aveva già vinto. Il Barcellona resta una squadra formidabile, quasi incapace di perdere il controllo della partita, ma è un po' più sazia degli anni scorsi, meno costante lungo la gara. A metterle fretta contribuisce molto la crescita del Real Madrid, primo con 3 punti di vantaggio, una qualità altrettanto stellare a cui Mourinho ha ormai finito di aggiungere la sua vecchia ambizione maniacale. Così Guardiola si sente meno tranquillo e qualcosa di questa sicurezza scheggiata arriva fino alla squadra. Condividi? Sì. Sicuramente hanno inciso gli infortuni, hanno avuto 6 o 7 infortuni muscolari lievi, ma alla fine comunque, e l'inserimento dei nuovi è sempre problematico, perché appunto Sanchez si è fatto male, Fabregas costringe a un cambio di modulo e questo quindi porta a un qualche scompenso, e David Villa l'anno scorso era sempre titolare, quest'anno ha giocato 6 partite su 12, e quindi cioè, dove lo mettiamo? Sì, l'analisi mi sembra assolutamente corretta, è anche complicato giocare sempre così bene e vincere sempre, insomma. Sì, il Barcellona ha fatto 3-2-2 in trasferta, no? Ha pareggiato con la Real Sociedad, il Valencia, ha pareggiato in casa col Milan, ha pareggiato col Siviglia, ha pareggiato a Bilbao all'ultimo minuto, e fanno più fatica dell'anno scorso. L'analisi, sì, da una parte sazietà e qualche difficoltà pratica, insomma, nel reinventare anche la difesa a 3, che ogni tanto è a 4, il modulo sta cambiando tantissimo. Prima noi abbiamo per anni, no? Si è scritto che dalle giovanili del Barça fino alla prima squadra tutti giocano col 4-3-3 via dicendo, no? E adesso tutto questo non è più così. Dobbiamo un po' rivedere, non è più vero, perché adesso con Guardiola loro, io li ho visti quest'anno giocare con 3 o 4 moduli diversi. Sì. E allora ovviamente anche questo ci vogliono dei tempi. Certo, e in più, senz'altro, il pensiero che comunque sei 3 punti dietro, conta che Guardiola non era mai stato a più di 2 punti di distacco da Real Madrid, e tra un 2 punti e l'altro 2 punti erano passati qualcosa come 3 anni, e per cui adesso trovarsi a meno 3 con un Madrid che aveva infilato 12 vittorie consecutive, Guardiola si era fermato a 11, si vede che è una macchina da guerra, sono in grande forma, sta arrivando il classico, ecco, queste sono preoccupazioni. Insomma, queste sono preoccupazioni, preoccupazioni vere. Senti Filippo, mentre Galliani dichiara spero che Ibra e Guardiola si salutino, ma ormai sta diventando una faccenda di Stato anche un po' troppo noiosa, e poi aggiunge, è giusto scrivere la verità in un libro e così via, aggiunge Galliani, so chi giocherà tra Robinho e Pato, la sensazione è che giocherà Robinho, anche se io a Pato contro il Barcellona non rinuncerai mai nella vita, perché è forse il giocatore maggiormente in grado di rompere le scatole al Barça con la sua verticalità, quindi non ci rinuncerai mai. Filippo, ti chiedo un attimo di pazienza, traffico, e poi vorrei una battuta invece, appunto abbiamo bordeggiato la questione Real Madrid, però ieri sera ha scherzato contro la Dinamo Zagabria. L'ultima cosa con Filippo Maria Ricci, che ne ha scritto sulla Gazzetta dello Sport di oggi, anche il Real B esagera, fa 4 gol in 20 minuti e 6 in tutto, Benzema, Caglioni, Higuain, Ozil, boom boom boom in 20 minuti, 4-0, credo che anche questo sia record per quanto riguarda per la Champions, sì. Ed è un Real Madrid che secondo me in questo momento è la squadra più forte d'Europa, Barcellona compreso, tutti quanti compresi. Sì, perché abbiamo visto che il Manchester City ieri sera ha mostrato i suoi limiti, no? In campionato è ancora molto forte, però il Manchester United è quasi disastroso, e il Chelsea non ne parliamo, insomma non è che resta molto altro. Però l'unica cosa ieri, ecco, io l'ho scritto, resti col dubbio, non riesci più, si spostano i confini, non sai più se sono loro dei fenomeni o quegli altri che sono dei pipponi maledetti, perché insomma io li ho visti togliersi di mezzo. Sì. Il primo gol è spettacolare, io appunto ho messo la sequenza dei passaggi, sono 8 passaggi tutti di prima, però voglio dire, gli avversari era il primo minuto, gli avversari dove sono? Non lo so. Ieri non è stata una partita, questi sono primi in Croazia, hanno 10 punti di vantaggio, cioè non mi sembravano, no, gli ultimi arrivati, eppure sono arrivati a segnare i primi gol in Champions alla 5ª partita, all'80esimo, però in difesa imbarazzanti, insomma, non lo so, non è una partita di corda, non indicativa, insomma. No, però un grande Real Madrid, un grande Mourinho, molto molto tranquillo, vediamo. Mancherebbe altro, cioè vinci vediamo, ma in generale. Sì, no. Infatti è diventato un po' palloso Mourinho, ne parliamo tutte le domeniche, e ci troviamo su questo punto, è diventato perfino lui un po' palloso, non sappiamo più a che santo votarci. Filippo, ci sentiamo domenica, certo, io e te. Grado col derby, che sabato c'è il derby, e vediamo domenica. Abbraccio, grazie. Ciao, grazie, ciao, ciao, grazie. Grazie, grazie a Filippo Maria Ricci. Torno agli ascoltatori con piacere, naturalmente. 800 24 0024 e con piacere supplementare saluto Cinzia da Siena. Buongiorno. Sì, buongiorno. Salve, salve. Io volevo fare, io sono una tifosissima milanista. Sì. Ma questa volta non volevo parlare della partita di stasera perché già sono in agitazione. Sì. Volevo invece parlare di una ferita che non si è mai per me rimarginata, cioè Kakà, questo Real Madrid, che ruolo può svolgere? Guardami. E che fine ha fatto? È stato molto in infermeria, è stato ai margini della squadra e forse anche ai margini dei pensieri di Mourinho. Mi verrebbe voglia di essere cattivo e dire che sta facendo il pensionato di lusso lì a Real Madrid, pur con tutto il suo talento e con tutta la sua, insomma, la sua giovane età, la sua possibilità di comunque di che avrebbe di spaccare ancora le partite altrove. Mi sembra prigioniero di un contratto che nessuno può pagare se non il Real. Mi sembra un giocatore, nonostante alcune apparizioni positive, ai margini di questo progetto. E quindi un po' tristezza anche a me, se devo dire la verità, questo momento, gli ultimi due anni di vita calcistica di un giocatore meraviglioso come Kakà. Dunque io capisco la sua ferita aperta, cara Cinzia. Antonio da Genova, buongiorno. Buongiorno, grazie. Senta, io mi faccio trascinare un po' da questo entusiasmo per il Napoli, che comunque è un entusiasmo made in Italy, perché il Napoli rappresenta un po' l'Italia per molti stranieri. No, Napoli molto spesso equivale all'Italia. Ecco, in un anno in cui è venuto a mancare quel grande imprenditore Jobs che proclamava siate folli, sì. Ecco, forse il Napoli è stato proprio la squadra che sta maggiormente interpretando e incarnando questo pensiero, perché più che la capacità tecnica, perché dati alla mano statistici freddi, il Napoli non eccelle rispetto nel palcoscenico internazionale, la sua follia e la sua capacità di riuscire ad esaltare dei fattori intangibili piuttosto che tangibili stanno veramente facendo la differenza. Quindi, senza nulla togliere al mister e a tutto il resto, io darei veramente un ruolo di primo rilievo alla città e al calore che dal quale è parte una motivazione fuori dall'ordinario. Guardi, ieri sera mi segnalava prima Franco Piantanida che ieri sera nel corso della partita c'era un inviato del Mirror, di cui non mi sfugge il nome, che ha twittato, che ha lasciato un messaggio su Twitter, a proposito anche per noi, Facebook e Twitter per A Tempo di Sport, mi raccomando, non perdetevi i nostri contatti e continuate a seguirci. Ebbene, questo giornalista del Mirror ha scritto: voto al pubblico di Napoli 11 su 10, quindi è chiaro che rappresenta un fattore, è chiaro che è una corrente emotiva tangibile, qualcosa che si può quasi toccare, no? Continuo a pensare che il Napoli si sia trovato in questo sogno un po' inconsapevolmente, cioè non credo che nell'approcciare questo girone con la trasferta di Manchester, nei pensieri di Mazzarri, De Laurentiis e dei giocatori stessi ci fosse il passaggio del turno, c'era la necessità, la voglia di vivere un'avventura di questo tipo, però il Napoli si è trovato catapultato in questo mondo con quel pareggio di Manchester e da lì è stato bravissimo a cavalcare l'onda con tutte le sue risorse, detto che comunque ha risorse tecniche e fisiche non indifferenti, insomma non è la squadretta che riesce miracolosamente a fare strada, è una squadra che ha un senso, che ha una logica e che ha anche delle qualità evidenti, tanto che, torno a ripetere, continuo a pensare che sarebbe stato da corsa per lo scudetto almeno quanto lo è la Juventus, se non dovesse pagare dazio, come fatalmente farà, a questo sogno impossibile della Champions. Claudio, provincia di Macerata, salve. Salve, io volevo parlare di Milan Barcellona di questa sera. Sì. Se sta in derista, se secondo lei Milan può giocarsela con Barcellona, ecco. Ma allargando un po' il discorso, secondo lei le squadre non stanno un po' prendendo le misure a questo Barcellona? Prendere la misura a Barcellona è molto difficile, perché tutti sanno come il Barcellona gioca, soltanto che arginarlo con le qualità che ha diventa quasi impossibile. Milan ha la possibilità di vincere la partita, perché no? Il Milan è maturato dal punto di vista europeo, resta la squadra più forte che c'è in Italia e non ho grandi dubbi su questo, però ha la possibilità di battere il Barça, senz'altro. Torno a ripetere, io avrei messo Pato più altri 10, che mi sembra il giocatore... Beh, ci ricordiamo il gol più bello della stagione, fin qui tutti compresi, che è stato quello, secondo me, quello di Pato a Barcellona, ma non a caso, perché è un giocatore che con la sua verticalità, ed è l'unico ad avere queste caratteristiche, può mettere in croce la difesa del Barcellona. Mi sembra invece, ne parlavamo prima, che il Barcellona si porti dietro qualche incertezza dovuta alla sazietà, se volete, dovuta al Real Madrid che preme, dovuta a qualche, vabbè, forse a una fisiologica, un fisiologico avvicinarsi della fine di un ciclo straordinario. Va bene, adesso però vi saluto, e vi saluto sentendo, tornando a Napoli, per sentire Cavani che canta. Vi lascio con questa, grazie a Franco Piantarini in redazione, a Pietro Lacorte in regia. Al Tempo di Sport torna domani alle 2. Oh vita mia, oh cuore, di chi soccorre, sei stato il primo amore.